Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, siamo entrati nella settimana del Natale. Auguri a tutti voi in ascolto. In regia abbiamo Giorgio Mattei, in redazione Laura Vanossi. Siamo pronti per andare a sentire i titoli del nostro sommario. Volontari, persone normali o speciali, impara a riposare bene con i nostri consigli. Natale, tempo di musica ma anche di poesia. Vive veramente chi è utile all'umanità e sa usare se stesso. Una frase di Seneca per introdurre la puntata di oggi. Parliamo di circa 1 milione di persone che hanno una grande fortuna, festeggiano Natale, la festa del dono e della vita, tutto l'anno. Sono volontari, gli acrobati della generosità, persone assolutamente normali, padri di famiglia, mamme, pensionati, ragazzi che decidono di dedicare una parte del loro tempo a fare qualcosa di utile per gli altri, per il prossimo, che può avere il volto di un anziano, di un malato, di un disabile, di un senza tetto, di un bambino, di una prostituta. Spingono carrozzine, distribuiscono pasti, regalano, io credo, ascolto, gesti, sorrisi. Sono ripagati da, a volte basta uno sguardo, da un sorriso, da una parola. Ma chi sono in realtà i volontari? Che cosa hanno di diverso? Perché? E cosa li spinge a ritagliare spazi del loro quotidiano da condividere con persone con cui effettivamente non hanno legami sicuramente di sangue, né di amicizia né di parentela? Allora, se siete volontari, io vi invito a darci una risposta, a raccontarci la vostra esperienza. 800 24 0024. Ma proviamo a fare anche un passetto in più. Chiamateci per raccontarci se l'incontro con un volontario ha aggiunto qualche cosa di più o di diverso alla vostra vita. Magari qualcuno è venuto a trovarvi quando eravate malato, oppure vi ha ascoltato quando proprio nessuno aveva il tempo per farlo. O vivete grazie al dono di qualcuno. Sto pensando ad esempio a chi ha bisogno di sangue. Ho potuto fare un intervento proprio grazie alla disponibilità di sangue. 800 24 0024. In studio ho due ospiti, ma ne abbiamo anche due al telefono, quindi ve le presento subito. Abbiamo qua davanti, qua in studio con noi, la professoressa Elena Marta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È psicologa e professore di psicologia sociale e di psicologia di comunità presso la facoltà di psicologia dell'Università Cattolica di Milano. È autrice insieme a una sua collega, la professoressa Maura Pozzi, di un libro molto interessante che si intitola Psicologia del volontariato, edito a Carrocci. Però in studio con me è tornata a trovare Regina Sironi, segretario generale della Fondazione Abbio. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie. So che i volontari si danno del tu, posso chiamarla Regina? Certamente. Ok, sì. Allora do del tu sicuramente ad Alessandra del gruppo Abele, che è in linea con noi da Torino. Ciao Alessandra. Buongiorno a tutti. Alessandra è giovanissima, una volontaria di 23 anni. 25 anni. E abbiamo però anche con noi una presenza maschile. Buongiorno ad Aldo Zino Calligaris, presidente di FIDAS. Buongiorno a lei, dottoressa Carbone. Buongiorno e grazie. Allora, noi abbiamo scelto tre forme di volontariato tra loro molto diverse. Direi tre gocce in questo mare di solidarietà che è grande e variegato. Non vogliamo certo rappresentarlo tutto, ma abbiamo scelto tre espressioni. Professoressa Marta, a guardarli dal di fuori, i volontari sembrano un po' persone speciali, insomma dotate di una marcia in più, persone con il cosiddetto gene della generosità. Che cosa hanno di diverso in più? Sono veramente così speciali come ci sembrano? Sì, allora direi che in parte è vero che sono persone un po' speciali, dall'altra parte è vero anche che non dobbiamo considerare i volontari come dei supereroi che hanno dei poteri magici, una bacchetta magica. Sono persone per certi versi un po' speciali perché in un contesto come quello attuale, un po' all'insegna dell'individualismo, dell'egoismo, hanno fatto una scelta direi forte, una scelta molto coraggiosa, che è stato proprio quello di investire del tempo da dedicare agli altri. Quindi una scelta che in qualche modo testimonia valori che oggi sembrano un po' sorpassati, ma che in realtà non lo sono affatto, perché vanno proprio al cuore dell'umanità. Valori come la solidarietà, la giustizia, la fiducia, la reciprocità. Ecco, direi che i volontari

Allora, sentiamo se i nostri ascoltatori hanno qualcosa da raccontare a noi. 824 0024, invece con Regina andiamo in ospedale. Regina, l'abbiamo sentito dire tante volte, ci viene proprio dal cuore. Non posso vedere un bambino che soffre, è un dolore troppo grande, è un'ingiustizia, mi si stringe il cuore. Però ci sono dei volontari che vincono questo stringicuore e vanno dai bambini in ospedale. Bambini che hanno degli occhi che raccontano storie molto tristi, persone che aiutano le mamme e i papà di questi bambini ad avere un pochino di speranza, a tirare un po' il fiato, a farsi un giro, andare a leggere il giornale con tranquillità. Regina, come si riesce a fare tutto questo? Si riesce quando si sa quanto sia importante per il bambino ritrovare, pur nell'ambito dell'ospedale, con tutte le sue rigidità, con le fatiche delle terapie, eccetera, il suo mondo di bambino sano. Quindi ricostruire intorno a lui quei luoghi, quei momenti, quelle attività che lo distraggano un pochino da quello che comunque rappresenta per lui l'ambiente, senza dimenticare poi il genitore che lo accompagna, che è ugualmente e così tanto bisognoso di essere ascoltato. Mi riallaccio a quello che diceva prima anche Alessandra. L'ascolto è in fondo tutto quello che noi possiamo dare a questi genitori, perché noi siamo persone che sanno di essere tenute a segreto professionale, per cui qualunque cosa viene raccontata sanno che non uscirà di lì, quindi riversano davvero su di noi tantissime ansie che magari non raccontano alla famiglia, per non preoccuparli troppo, per non rendere ancora più angoscioso questo ricovero del bambino. Quindi, come dire, il volontario è un luogo di accoglienza di tutte queste cose, di tutte queste ansie che devono essere raccontate, ma che non possono essere raccontate nei familiari, proprio per cercare di mantenere sotto controllo questo dolore che accompagna un po' tutti la cerchia per questa malattia del bambino. E quindi il genitore ha bisogno di questo momento, il bambino ha bisogno di ritrovare la capacità di giocare, di ridere, di divertirsi anche nell'ambiente dell'ospedale, e tutto questo porta un sorriso in più, ed è tutto qui il nostro lavoro. 824 0024, se volete parlare con noi o scriverci al 349 238 6666. Una mela al giorno. Molti di noi, soprattutto in questi giorni, vuoi per la stanchezza, un po' le preoccupazioni, le corse, gli affanni natalizi, arrivano a letto e non riescono a dormire, si girano e rigirano. Vedo che la professoressa Marta annuisce, segno che forse questi giorni di feste iniziano a segnare anche il suo sonno. Ma in linea con noi ci viene in aiuto la dottoressa Cinzia Castronovo, psicologa del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dottoressa, voi insistete molto sull'igiene del sonno, andare a dormire sempre alla stessa ora, non addormentatevi davanti alla TV, cercate di evitare di andare in palestra subito alle ore tardi, non mangiate troppo pasti troppo abbondanti. Uno segue questi consigli, ma alla fine magari si addormenta lì per lì, poi si sveglia l'occhio a palla e il sonno non arriva. È vero, purtroppo per chi soffre di insonnia il vero problema è che seguire anche alla lettera le regole di igiene del sonno purtroppo non serve. Se c'è un vero problema di insonnia bisogna anche fare qualche cosa d'altro. Però io vorrei dare innanzitutto un messaggio positivo. Brava. È normale, soprattutto in questi periodi così stressanti e così pieni come quello del Natale, non dormire molto bene, soprattutto sì, magari per chi non ha un disturbo grave, non dormire una notte. Succede anche ai buoni dormitori. Quindi innanzitutto il mio messaggio è: non ci preoccupiamo troppo, perché spesso è vero, ci si alza al mattino e non abbiamo voglia di fare le cose, non abbiamo l'umore nostro solito, però cerchiamo di passare la prima ora, di essere positivi, e vedremo che la giornata funziona lo stesso. Poi l'altro mio consiglio è: cerchiamo di coccolarci in questo periodo, non pensiamo sempre solo agli altri, soprattutto per chi non ha un bel sonno, cerchiamo di occuparci di noi, di programmarci delle attività piacevoli e rilassanti, anche soltanto per 2 o 3 volte alla settimana, per mezz'ora, un'ora. Questo certo, sicuramente può aiutare molto la qualità del nostro sonno. Per quanto riguarda l'alimentazione, ci scrive un messaggio Augusto se ci sono degli alimenti, oltre al classico latte e miele, che possono in qualche modo conciliare il sonno.